forza, nessuno è complice, nessuno sa dove si va, ma si continua a correre. E anche quando tutto è inutile, quella pioggia cade giù. Quando appare